Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. E questo è il momento ideale per fare una proposta. Siamo di primo mattino, iniziamo la giornata. Accanto a me, perché vi faccio questa proposta? Perché accanto a me è tornato Daniel Lumera, che è un riferimento internazionale nel campo della meditazione. E quindi quale migliore occasione per iniziare bene la giornata? Per me inizia benissimo. Ciao Daniel. Buongiorno a tutti. Ma vogliamo farle iniziare bene e proseguire ancora meglio agli amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, perché si dice, a proposito di saggezza popolare, il mattino loro in bocca, e i ragazzi direbbero: c'è tanta roba dentro questo proverbio, perché sì, la tradizione insegna che il mattino è un momento ideale non solo per organizzare la giornata, ma per risvegliare anche il nostro corpo, quindi dagli tutti gli strumenti per dire: dai, no, parti bene, il corpo deve sono essere... con te. Il corpo deve essere è una macchina biologica che va risvegliata nella maniera corretta. Ci sono tantissimi consigli straordinari e semplici, come per esempio bere un bicchiere di acqua calda o la corretta colazione. Però dovremmo considerare l'essere umano in maniera più complessa, nel senso che non è solo il corpo a dover riprendere le sue funzioni, ma anche la mente, anche tutto il nostro mondo emozionale, anche l'aspetto delle emozioni e della mente insieme e dell'energia vitale. Quindi ci sono delle pratiche anche molto antiche che, rivisitate in chiave moderna e soprattutto valorizzate dai risultati della scienza moderna, possono farci iniziare il mattino veramente, come hai detto tu, con l'oro in bocca, cioè in maniera... E la prima cosa che consiglierei alle persone è questa. Appena svegli, c'è una pratica molto semplice ma anche di grande impatto, che serve per orientare, per iniziare a far funzionare la mente in maniera corretta. Sono cose molto semplici, però hanno un impatto sull'emozione e sulla mente positivo. È sufficiente fare due respiri, uno molto profondo appena si apre gli occhi. Durante l'inspirazione prendere consapevolezza di se stessi, e sembra una cosa banale, ma non è come centrarsi, come dire: bene, io esisto, io sono esattamente qui. Non permettere alla mente subito di entrare con i problemi, con i pensieri, ma la prima cosa è prendere consapevolezza col fatto che abbiamo un dono molto grande, che è la vita, e quindi dire: io sono qua, ho una casa, ho un tetto sopra di me, io esisto. Questo è importantissimo, perché la mente si setta su quel pensiero, che vuol dire consapevolezza di se stessi. Ecco, facciamolo, perché lo diamo per scontato ogni giorno. E invece è una meraviglia provare a farlo da domani mattina. Adesso siete già svegli e probabilmente siete già in piedi, ma domani provate a farlo quando siete ancora a letto. Quando siamo a letto ci sediamo un attimo nel letto, anche nel cuscino, senza bisogno di mettere i piedi per terra. Inspiriamo profondamente e prendiamo consapevolezza di me, di se stessi. Basta dire anche semplicemente: io esisto, io sono qui. Prendere consapevolezza di se... ed espirando pronunciare la prima più importante parola di tutto il giorno, che è: grazie. La mattina dovrebbe iniziare con un ringraziamento, con una gratitudine. Ma esiste una biologia della gratitudine, una biologia della gentilezza, una biologia... Cioè sono tutti i pensieri hanno un impatto sul nostro corpo, e quindi iniziare la giornata con la gratitudine è di fondamentale importanza, perché dà un orientamento, dà una direzione, come un GPS interiore che dice alla mente: funziona in questo modo. Inizia a riconoscere, riconoscere ciò che di bello c'è nella tua vita, e a partire da questo atteggiamento, che sicuramente è positivo, inizia la giornata, inizia a affrontare il mondo. E poi la terza cosa che consiglio di fare è, dopo aver bevuto un bicchiere di acqua calda, è praticare una serie semplicissima di respirazioni che servono per abbassare il livello di CO2, di anidride carbonica nel sangue, aumentare il livello di ossigeno e ossigenare il cervello. Sono 7 semplicissime respirazioni e si eseguono in questo modo: si inspira dalla bocca. Introduciamo molta più aria dentro. Possiamo passare addirittura da 500 centimetri cubi di aria fino a 3000. Quindi il cervello inizia a ricevere ossigeno e dire: ah, ma qua mi devo svegliare. Per forza mi devo svegliare. Certe volte ci svegliamo e continuiamo a dormire anche nelle 3 ore. Una volta respirato dalla bocca profondamente, bisogna espirare dalle narici in maniera abbastanza forte. Uscirà muco, quindi bisogna prendere un fazzolettino, poi ispirare nuovamente dalla bocca e poi fuori dalle narici. Questo 7 volte. Se si sente un troppo ossigeno dentro, perché l'obiettivo non è iperventilare, allora bisogna ridurre l'ampiezza della respirazione. L'obiettivo qual è? 1. Ossigenarci meglio. 2. Aumentare la temperatura del corpo. 3. Risvegliare tutti i processi metabolici. 4. Stimolare il sistema cardiocircolatorio. 5. Anche il sistema immunitario. 7. Semplicissime respirazioni, alla fine delle quali dovrei mettermi a restare per un minuto solo in uno stato di silenzio, e in questo modo dovrebbe iniziare la mia giornata: una respirazione, la gratitudine, un bicchiere d'acqua calda e 7 semplici respirazioni. Fantastico. Noi tra l'altro sono parecchi giorni che meditiamo. Abbiamo iniziato quando tu sei venuto in trasmissione, hai lanciato una sfida, hai iniziato giorni. 28 giorni per meditare, per trovare e sperimentare questo cambiamento. Ah, questi sono effetti scientifici, ecco, non lo diciamo noi, ma c'è una letteratura scientifica a dimostrazione, e quindi proviamo a farlo da oggi, per chi, se siete arrivati in ritardo, con questa sorta di nutrimento per la mente, nutrimento per il corpo, nutrimento per l'energia vitale, nutrimento per le emozioni, perché noi siamo un sistema interdipendente, profondamente interconnesso, in cui se le emozioni... Tu hai voglia, come si dice a Roma, mangiare bene, se poi hai pensieri ossessivi ed emozioni devastanti come paura, ansia, colpa, impotenza. Abbiamo, come ho detto prima, una biologia emozionale, una biologia dei pensieri, dove se la nostra dieta emozionale e mentale non viene regolata, il nostro corpo sta male. Quindi possiamo anche mangiare bene, però se poi siamo devastati sui piani più sottili del nostro essere, la qualità della vita sicuramente ne risentirà. E la meditazione è una grande medicina preventiva e curativa. Daniel, abbiamo ancora qualche minuto di risveglio insieme per iniziare bene questa giornata, ma anche per proseguirla, perché la meditazione ci può essere d'aiuto, anche un po' una stampella nel corso della giornata. Ci sono dei momenti in cui potrebbe esserci utile acquisire questa capacità. Tanti momenti, questa stessa tecnica che ho dato per la mattina, questi 7 respiri e poi questo minuto di silenzio finale, potrebbero essere applicati ad esempio dopo una riunione particolarmente pesante o prima di una riunione di lavoro importante, per avere chiarezza, per avere presenza, consapevolezza, per attivare tutti i processi creativi della mente, oppure dopo una discussione familiare, o per esempio la sera per poter entrare in uno stato di rilassamento, dove abbassiamo il ritmo, abbassiamo la pressione, abbassiamo il ritmo del battito cardiaco, ha un enorme tantissimi campi di applicazione, però vorrei dare alcune indicazioni su quando non bisogna meditare. Bravo, mi piace. Prima indicazione: dopo mangiato non bisogna meditare, bisogna riposare oppure mangiare leggeri. Però siccome siamo impegnati in un'attività metabolica, è importantissimo che la nostra mente sia vuota. E anche dopo, questo lo raccomandano tutte le tradizioni antiche, dopo l'attività sessuale, soprattutto se è stata un'attività sessuale passionale, in quel caso bisogna semplicemente riposare. Ma l'attività di meditazione, avendo noi mosso un vulcano a livello ormonale, a livello mentale, a livello emozionale, bisogna in quel caso lì far passare almeno mezz'ora, un'ora di tempo. Queste sono le indicazioni che da sempre vengono dati, ricordando alle persone che per poter meditare bene, sì, nel caso una persona, non so, a te mai è successo di provare a meditare, la tua mente... È qua che volevo arrivare, tu lo sai, perché uno dei problemi quando noi proviamo a seguire, no, le indicazioni che trovate anche sulla pagina di Obiettivo Salute del sito del Sole 24 Ore, i video di Daniel Lumera, quando dobbiamo fare silenzio, abbiamo fatto le nostre respirazioni, le 7 respirazioni, 21 respirazioni, abbiamo provato quella, no, a livello del torace, quella a livello del diaframma, quelle dell'ombelico, poi la mente dovrebbe essere un po' vuota. In realtà passano dei tram in cui pensiamo alla bolletta da pagare, al collega che dobbiamo chiamare, alla mail, ecco, di questi pensieri che disturbano, è un po' come mi mettono un po' in crisi, perché mi dicono che evidentemente ho sbagliato qualche cosa, allora divento giudicante, allora dico mamma mia, ho sbagliato tutto. Cosa faccio? Allora, la nostra mente è considerata dalle antiche tradizioni come un organo, come il cuore, come il bisogna comprendere come farlo funzionare bene. Per farlo funzionare bene, per esempio, a volte tanti medici prescrivono il digiuno, è diventata una moda al giorno d'oggi. Si può digiunare anche con la mente. Come? Gli elementi della mente sono ad esempio le relazioni. Bisogna, per far funzionare bene la mente, iniziare a selezionare le relazioni che abbiamo, eliminare quelle tossiche. Ci sono delle relazioni che dopo aver frequentato delle persone ci sentiamo più distrutti e più pesanti di prima. Se vuoi ottenere silenzio mentale, regola le relazioni. 2. Alimentazione. Io sono sicuro che dopo che ti mangi un tiramisù, che è buonissimo peraltro, è un dolce buonissimo, però è un po' difficile meditare. Però se la tua alimentazione non è settata, regolata, su alimenti nella tradizione indovedica si chiamano sattvici, cioè alimenti leggeri che portano la mente verso l'alto e che non la appesantiscono. Come ad esempio tutti i cibi ultraprocessati, tutti i cibi ricchi di zucchero, di grasso. Bisogna sapersi orientare e sapere anche cucinare cibi naturali, cibi che hanno basso contenuto in, per esempio, ridurre i carboidrati e mangiarli integrali, sono tutta una serie di indicazioni. E quindi si va alla bufala in tavola. Assolutamente. E infine anche l'attività sessuale deve essere regolata, non deve essere sregolata, come tutto. Quindi abbiamo detto alimentazione, relazioni, attività sessuale, quindi corretta alimentazione. Una volta che abbiamo regolato queste cose qua, che il nostro stile di vita diventa sano, che diventa più sano, vedrai che la pratica meditativa e il funzionamento della tua mente sarà più incline al silenzio, alla contemplazione, all'ascolto e soprattutto a quella felicità naturale che porta tanto tanto benessere nelle nostre vite. Grazie a Daniel Lumera, noi ci sentiamo a mezzogiorno come sempre per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi ci vediamo per la nostra diretta Facebook. Grazie a Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi come sempre preziosissima in redazione.